Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Energia, addio al mercato tutelato, il consiglio di Federconsumatori FVG: mai accettare contratti al telefono. Lavoratori transfrontalieri, 1400 trasferiti in Carinzia in 15 anni, 300 in pendolari, solo 50 dall'Austria in regione. Ambiente, governance, responsabilità sociale, assi delle aziende regionali per accedere al credito. Intossicazioni da monossido di carbonio in Friuli, tra Udine e Palmanova, 5 donne in ospedale. Prime unità abitative per le forze dell'ordine impegnate nei controlli ai valichi, il SAP, troppi ritardi. Ha rivolto cambio della guardia al comando delle frecce, saluta il friulano Vit, arriva il campano Salvatore. 30 anni di sincrotrone a Trieste, una sfida vinta in attesa di Elettra 2.0, investimento da 200 milioni. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Niente proroghe per il mercato tutelato dell'energia, le tariffe di gas e luce fissate dallo Stato stanno per scomparire, un tema che tocca tutti i cittadini, al centro di un incontro di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia questa mattina a Gorizia. Nessuna proroga. Dal 10 gennaio sarà ufficiale l'addio al mercato tutelato del gas e dal 1 aprile a quello dell'energia elettrica, quello che si apre per il 30% degli utenti italiani ancora legati al regime di maggior tutela, è in molti casi un salto nel buio, in una situazione di incertezza dove è alto il timore di un aumento dei prezzi. Federconsumatori ha organizzato a Gorizia un convegno per fare chiarezza. Come ricorda Erika Cucco, coordinatrice regionale degli sportelli energia di Federconsumatori, a differenza del regime tutelato, dove i prezzi sono decisi da ARERA, l'Authority per l'energia e i servizi a rete, nel mercato libero tariffe e costi varieranno a seconda del fornitore. L'utente, spiega, dovrà scegliere con attenzione, valutando l'offerta migliore sulla base delle proprie abitudini di consumo, offerta che potrà essere anche più conveniente rispetto a quella attuale. Per difendersi da truffe o da rincari inspiegabili, i fornitori sul mercato sono più di 800, il consumatore dovrà studiare i termini del contratto e conoscere bene la bolletta, spesso non di semplice lettura. Un consiglio è di non sottoscrivere mai offerte fatte al telefono, ma di avere sempre un documento cartaceo su cui ragionare. Per confrontare le offerte sul mercato, poi, l'utente potrà usare il portale delle offerte, un sito istituzionale di comparazione di ARERA che mette a confronto le diverse possibilità. Alcune cose devono essere chiare, aggiunge, non tutti sono obbligati a passare al mercato libero. È prevista una fascia di esenzione, infatti, che riguarda chi ha più di 75 anni, chi percepisce bonus sociali, chi ha la 104, chi vive in abitazioni di emergenza o su isole minori non interconnesse. Non solo, non è vero, a differenza di quanto dicono diversi fornitori al telefono, che dopo il 10 gennaio la fornitura sarà staccata. Chi non avrà scelto per quella data la nuova soluzione continuerà a ricevere il servizio dallo stesso fornitore, che però applicherà una tariffa cosiddetta placet, che sarà peggiorativa. Per Fabrizio Ghidini, responsabile nazionale di energia Federconsumatori, il governo ha gestito male la transizione, senza un'informazione chiara e lasciando sguarnito l'utente, che ha poche difese di fronte alle aziende, ricorda, anche dal punto di vista legale. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. I lavoratori transfrontalieri tra Italia e Austria ne hanno parlato a Coccao il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il governatore della Carinzia, Peter Kaiser. La Carinzia è sempre più attrattiva nei confronti del tarvisiano. Sono i 1400 coloro che hanno spostato le residenze dal Friuli Venezia Giulia oltre confine negli ultimi 15 anni, secondo quanto emerso in un evento organizzato dal Consiglio Sindacale Interregionale che unisce la nostra regione e la Carinzia e coordinato dalla CISL. In crescita anche il numero di transfrontalieri, coloro cioè che vivono in Italia e lavorano al di là della frontiera. Sono ormai quasi 300 a fronte dei 50 che vivono in Austria e lavorano in Friuli Venezia Giulia, dati inclusi nella prima ricerca congiunta italo-austriaca sulle due regioni a proposito delle questioni che riguardano i lavoratori transfrontalieri, i quali, se trovano ostacoli troppo grandi alla loro condizione di pendolari o per la difficoltà dei trasporti o per altre ragioni, come quelle fiscali, previdenziali o di welfare, sono poi spinti a trasferirsi definitivamente. La Carinzia è regione molto attrattiva non solo per l'Italia, ma anche per gli altri paesi, in particolare per gli sloveni, soprattutto nel settore della meccatronica. Tuttavia, secondo l'autore italiano della ricerca Daniel Spizzo, anche il Friuli Venezia Giulia sa essere attrattivo specialmente nei confronti di Slovenia e Croazia. All'iniziativa che si è svolta nel Museo della Dogana di Coccao a due passi dal confine hanno partecipato l'assessore regionale del lavoro Alessio Rosolen e il governatore della Carinzia Peter Kaiser. Da Tarvisio, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sostenibilità aziendale come vantaggio per le imprese anche sul fronte dell'accesso al credito, al centro di un convegno di Confindustria Udine. Calano i prestiti bancari alle imprese del Friuli Venezia Giulia, effetto dell'indebolimento della fase ciclica e dell'aumento dei tassi di interesse. A rilevarlo sono i dati Banca Italia, rielaborati dall'ufficio studi di Confindustria Udine. Ad agosto 2023 la contrazione era del meno 12,7% su base annua. A titolo di confronto basti dire che a dicembre 2022 la variazione tendenziale era stata del meno 2,6%, mentre a settembre dello stesso anno i prestiti alle imprese erano ancora in crescita più 5,9%. Il settore più penalizzato risulta essere quello manifatturiero, con una perdita di oltre 19 punti percentuali anno su anno. Male anche il terziario, dove i prestiti sono in calo di oltre il 7%, mentre il comparto dell'edilizia segna un meno 4,5%. Un fenomeno insomma trasversale che riguarda la generalità delle imprese, ma dove sono le grandi aziende a registrare la variazione annua più consistente, meno 13,4% contro il meno 9% delle PMI. Dati che testimoniano un calo della fiducia delle imprese nello scenario economico e che si traducono in una minore disponibilità di queste ultime a investire in personale e tecnologie. Da qui l'appello della vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, a mantenere invece alta l'attenzione sugli investimenti per essere più competitivi nel momento della ripartenza e pronti a cogliere le opportunità che dovessero presentarsi nei prossimi mesi, soprattutto dalla transizione green e digitale. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. Un'anziana di 81 anni e la sua badante di 45 sono state ricoverate ieri sera all'ospedale di Udine dopo aver inalato monossido di carbonio. Il fatto è accaduto in un'abitazione a Rivolto. A dare l'allarme è stato un parente dell'anziana. Il tempestivo intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. E a San Giovanni al Natisone altre tre donne in due diversi momenti hanno accusato malori riconducibili a una intossicazione da gas metano. Nel pomeriggio alla centrale Sores è arrivata la richiesta di soccorso per una donna che è stata portata all'ospedale di Palmanova senza gravi conseguenze. Qualche ora più tardi hanno accusato lo stesso tipo di malore nella stessa abitazione altre due donne, anche loro soccorse da un'ambulanza. E sono state numerose le segnalazioni nelle ultime settimane da parte di cittadini contattati da numeri telefonici in apparenza provenienti dagli uffici della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una nuova, sofisticata tipologia di truffa, avverte la polizia. I truffatori utilizzano centralini VoIP, spesso con sede all'estero, con i quali clonano i numeri di telefono. La truffa inizia con un primo contatto da numeri di telefono riconducibili a Poste Italiane che invitano ad aprire pagine che in realtà sono cloni in cui inserire i codici del conto. Segue poi la chiamata da parte di un numero che appare essere della Polizia Postale che avverte come il conto sia in pericolo. Il truffato effettua così un bonifico, un posto a giro verso un conto definito sicuro, con la promessa di riottenere l'ammontare del denaro il giorno successivo. La polizia ricorda di diffidare sempre di chi richiede bonifici o pagamenti e di farsi dire il nome dell'interlocutore, cercare il numero di telefono delle forze dell'ordine e chiedere di quel nominativo. E attività di controllo della Polizia Locale di Trieste in collaborazione con ACEGAS, APS, AMGA e ATER per reprimere l'uso illecito di immobili e l'utilizzo abusivo dei servizi elettrici negli alloggi in gestione all'azienda. Nelle zone di via Carmelitani, via dell'Attesa, via dell'Agro, via del Crocifisso, via Grego, via Lorenzetti e via Orlandini sono state constatate alcune irregolarità e numerosi danni agli immobili. I tecnici di ACE Gas APS AMGA hanno inoltre individuato alcuni allacciamenti abusivi alla rete elettrica che sono stati rimossi, denunciato un cittadino serbo di 35 anni per invasione di terreno edificio, occupazione abusiva di immobile e danneggiamento aggravato, in corso indagini su altre persone possibilmente coinvolte. Oltre un mese dopo la sospensione del trattato di libera circolazione di Schengen, arrivano ai valichi di confine le strutture per le forze dell'ordine di nuovo impegnate nei controlli alla frontiera. Sono arrivate ieri le prime unità abitative per gli agenti delle forze dell'ordine in servizio ai valichi di confine per i controlli alle frontiere ripristinati dopo la decisione di sospendere il trattato di Schengen in seguito al riesplodere del conflitto in Medio Oriente per evitare eventuali infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Si tratta di container di colore blu posizionati nei pressi dei confini, come quelli di Fernetti dove siamo stati questa mattina, che servono alcuni da ufficio e altri da postazione per il controllo dei documenti in modo analogo alle vecchie casette di confine. Il fatto però che le strutture siano arrivate solo dopo oltre un mese dalla decisione di ripristinare i controlli, entrata in vigore il 21 ottobre, ha suscitato le perplessità dei sindacati di polizia, che chiedono tempi più celeri qualora provvedimenti analoghi dovessero essere adottati in futuro. Sentiamo Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP di Trieste. Noi siamo soddisfatti dell'arrivo di queste unità abitative, lo chiedevamo da tempo. È chiaro che per il futuro, nel caso in cui dovesse essere adottato lo stesso provvedimento, la sospensione di Schengen, vorremmo che queste arrivassero in tempi celeri, in poche ore. Fernetti, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Rivolto, casa della pattuglia acrobatica nazionale, questa mattina c'è stato il passaggio del testimone al comando delle frecce. E il tenente colonnello Massimiliano Salvatore, il nuovo comandante del 313° gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori di Rivolto. Succede al tenente colonnello Stefano Witt, che ha comandato la pattuglia acrobatica nazionale dal 2021. Il passaggio di consegna è avvenuto con il tradizionale volo che rappresenta una rarità del programma acrobatico delle frecce. I due comandanti piloti, insieme al resto della pattuglia, solo in questa occasione composta da 9 pony, ha effettuato il sorvolo e alcune evoluzioni. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante delle forze di combattimento generale Luigi Delbene. Commosso il commiato del comandante Witt, che ha ricordato l'anno intenso e difficile per la scomparsa di due compagni, il maggiore Gersi e l'aviere Variale, ma anche l'intensa attività per il centenario della fondazione del corpo. Nel suo intervento il tenente colonnello Salvatore ha insistito su due concetti importanti: fiducia e tradizione. Rivolto, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste ha celebrato i 30 anni di vita del suo acceleratore di particelle, nato grazie al caparbio impegno di un manipolo di scienziati. Ora si rilancia con Elettra 2.0. L'intuito del fisico Luciano Fonda, profugo istriano rifugiato a Trieste, che a Trieste voleva restituire ciò che la città gli aveva dato, costruire una delle prime macchine di luce allora di terza generazione, la chiamata alle armi di un altro fisico, esperto di sincrotrone, Renzo Rosei, un enorme prato verde individuato come area ideale per realizzarlo sul Carso Triestino, una squadra eccezionale, una sfida improba fatta di entusiasmo, di coraggio, ma anche di amarezze, di sgambetti e delle epiche sfuriate del premio Nobel Carlo Rubbia, goriziano dal carattere sanguigno che però riuscì a trovare gli investimenti. 30 anni fa nasceva così Elettra Sincrotrone, una sfida vinta, ora rilanciata con Elettra 2.0 e che è stata rivissuta in un amarcord al Teatro Verdi di Trieste con un concerto del Conservatorio Tartini. L'orgoglio di allora brilla ancora negli occhi di uno dei padri fondatori, Renzo Rosei. Elettra è il mio secondo figlio praticamente. Potrei veramente scrivere un'enciclopedia su quel periodo. Il prossimo anno Elettra si fermerà per far spazio a Elettra 2.0, sulla quale il sincrotrone sta investendo 200 milioni di euro. Il presidente Alfonso Franciosi. La nuova macchina sarà 1000 volte più brillante, 60 volte più coerente, potrà fare una serie di tecniche che al momento non possiamo utilizzare con la macchina attuale. Faccio un esempio, la radiologia medica che facciamo adesso è limitata a dei tessuti molto superficiali, perché non abbiamo le energie necessarie a fare una radiografia dell'intero paziente. Con la macchina nuova avremo una stazione sperimentale dedicata all'esame delle patologie polmonari con le energie sufficienti a fare un'immagine completa dell'intero polmone senza estrarlo dal paziente. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il meteo, il cielo è variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 9 gradi, a Gorizia 8, a Udine 7 gradi e 5 decimi, a Pordenone 6 gradi e mezzo, a Tolmezzo 4 gradi, a Forni di Sopra 3, a Tarvisio 2 gradi e mezzo, sul Piancavallo 1 grado e 5 decimi, a Sappada meno 2 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 1 grado positivo, sul Monte Lussari 0 gradi, sulla costa grado 8, Lignano 6 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: in atto un miglioramento con cielo variabile in estensione a tutte le zone. Ha esordito questa mattina il progetto solidale promosso dall'Associazione The Banfield, che prevede la presenza di volontarie nell'atrio della Camera di Commercio di Trieste in Piazza della Borsa da oggi fino a venerdì 1 dicembre per proporre le creazioni della linea La Borsa che dona, contenenti panettoni artigianali, torroncini, cioccolatini confezionati con sciopere, sacchetti di stoffa creati con tessuti, foulard e cravatte donati all'associazione, che ha dato loro nuova vita. Il ricavato delle donazioni sarà impiegato per l'impegno di assistenza domiciliare dell'associazione, che conta su progetti di movimentazione della persona anziana fragile e formazione dei familiari e degli assistenti familiari a casa. Ad oggi sono più di 120 le persone seguite gratuitamente dall'equipe di assistenza domiciliare dell'associazione The Banfield. Il progetto Tutela i diritti, promosso dall'Associazione per i bambini chirurgici del Burlo ABC, che dal 2005 offre sostegno ai bambini che devono affrontare complessi percorsi chirurgici nell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo di Trieste, prosegue con i webinar di approfondimento sulle tematiche legate alla normativa e ai servizi resi disponibili dalla legge 104. Il progetto si pone l'obiettivo di fornire informazioni e aggiornamenti sul tema della disabilità a famiglie e professionisti. Oggi in calendario l'appuntamento con l'avvocato Elisabetta Rovatti, che si occupa dello sportello L'Avvocato Risponde, a cui le famiglie potranno rivolgere domande e quesiti su legislazione e inclusione scolastica. Appuntamento sulla piattaforma Zoom alle 18. È basato sul montaggio di brani dei cinegiornali Luce realizzati durante il ventennio, il film intitolato Fascista è stato realizzato da Nico Naldini quando lavorava come capo ufficio stampa per la società PEA di Alberto Grimaldi, società che finanziò gli ultimi 4 film del regista intellettuale di Casarsa Pierpaolo Pasolini e che produsse anche il film Fascista. In un articolo apparso sul quotidiano Il Messaggero, intitolato Poveri ma fascisti, Pasolini lodò il film e lo difese dalle critiche mosse da più parti. Il film sarà proiettato a Casarsa della Delizia, al Teatro Pasolini, alle 20.45. Ne abbiamo parlato con Piero Colussi, già presidente del Centro Studi Pasolini. Questo film di Nico Naldini, Fascista, che è un episodio abbastanza unico nella sua carriera di scrittore e di poeta, nasce in realtà a Grado nel 1972, quando le Giornate del Cinema di Grado organizzano una rassegna proprio sui documentari dei paesi fascisti e nazisti, e Naldini ha per le mani per la prima volta questi cinegiornali che allora non si conoscevano, oggi sono molto visti soprattutto in televisione. Da lì la necessità di mettere insieme, assemblare un film che fa capire quando è stato importante il rapporto fra Mussolini, che era il capo, e la massa degli italiani che riempivano le piazze, questo è documentato da queste immagini. Il film gode della voce narrante di Giorgio Bassani, uno scrittore al di sopra di ogni sospetto, ma alla sua uscita suscitò molte discussioni, fu malinteso. Pasolini lo difese soprattutto quando andarono a Parigi lui e Nico Naldini, dagli studenti che lo hanno boicottato in tutti i modi, perché troppo, come dire, da un'immagine troppo buona, troppo pacificata di Mussolini. In realtà Pasolini voleva dire una cosa molto diversa. Diceva che il fascismo di allora era archeologia. Siamo nel 74 quando esce questo film. Il vero fascismo è quello di oggi ed è la società dei consumi. Lui in quegli anni stava, come dire, alimentando una polemica contro la società dei consumi e contro il consumismo sulle pagine del Corriere della Sera, ma questa sua interpretazione così troppo leggera nei confronti del fascismo del ventennio, ecco, non fu accolta da tutti con condivisione, e da lì il film sparì. Dopo la sua anteprima al Festival di Venezia si vide in poche altre occasioni. Alcuni appuntamenti con gli spettacoli al Teatro Pasolini di Cervignano: il quartetto vocale Annutis presenta Memoria, cantata per Pierpaolo Pasolini. Ad introdurre il concerto un contributo storico musicale di Walter Colle e Roberto Calabretto sulla figura di Giovanna Marini alle 20:45. Ugo Di Ghero interpreterà Arpagone nell'Avaro di Molière, lo spettacolo prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e ospite del circuito Erte per 4 serate, oggi all'Auditorium Aldo Moro di Cordenonza, in cartellone alle 21. La rassegna Alto Livenza Festival propone Storia di un soldato, componimento del russo Igor Stravinsky, al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenonza alle 16 con la collaborazione degli studenti del liceo artistico Galvani. I grandi maestri del barocco europeo è il titolo dell'appuntamento di oggi dei concerti autunnali del Conservatorio Tartini di Trieste alle 20:30. Di scena sarà l'ensemble Collegium Pro Musica, formato da Stefano Bagliano al flauto dolce, Alberto Pisani al violoncello e Angelica Selmo al clavicembalo. In programma musiche di Handel, Bach e Telemann, ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. Un bar di Tiara, la sai, mi ha 25 anni dalla scomparsa. Gorizia, dice insomma Cor, una delle voci più alte del Novecento nel Friuli orientale. La Società Filologica Friulana e il Comune di Romans di Sonzo promuovono a Versa, paese natale del poeta e scrittore, una serata in cui si tratteranno alcuni dei temi a lui cari, l'amore per la montagna e per la letteratura, in sala parrocchiale alle 20:30. All'antico Caffè San Marco di Trieste, in programma l'iniziativa Buon Compleanno Stefan Zweig, che prevede alle 18 la presentazione della prima opera teatrale dell'autore austriaco Tersite. Elisa Risigari, attrice e regista teatrale, leggerà dei brani dell'opera. Primo di 5 reading per scoprire un capolavoro della letteratura serba, Sangue in puro di Boris Stankovic, a cura dell'associazione culturale Le Ombre d'Esto Son Sogno, inserito nella rassegna Trieste Incroci Letterari, in collaborazione con la comunità religiosa serbo-ortodossa e con l'associazione culturale giovanile serba di Trieste, alla libreria Ubik in galleria Tergesteo alle 17:30. Un appuntamento al mese fino a marzo. Argo, vita segreta di un camper di Cristina Cristofoli, sarà presentato a Gorizia al Kulturnidom alle 18. Il libro racconta la storia di un vecchio camion degli anni 80 salvato dalla rottamazione da una coppia di viaggiatori che lo trasforma in un camper fuoristrada. La Sala Xenia della comunità greco-ortodossa di Trieste ospita la presentazione del libro di Ottilia Saldana dal titolo La Divina Presenza in Me, messaggi da Dio, i decreti che i suoi figli dovranno seguire. In contemporanea avrà luogo la proiezione delle opere di Saldana, oltre che scrittrice anche pittrice, alle 18:30. A Gorizia è oggi in programma la festa della dedicazione della cattedrale di Gorizia. Era il 28 novembre del 1942 quando l'arcivescovo Margotti dedicava la cattedrale ai martiri Ilario e Taziano. Nel sito le attestazioni di una chiesa dedicata ai due santi risalgono al XIII secolo. L'arcivescovo Redaelli presiederà la celebrazione della Santa Messa alle 18:30 in cattedrale. Verrà eseguito per la prima volta il brano Adoro Te, composto appositamente dal maestro Marco Colè. L'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone organizza per oggi un incontro con le mamme in attesa che si sarebbero riferite al punto nascita di San Vito al Tagliamento alle 15.30 in sala Molaro al piano terra del padiglione H. In presentazione il punto nascita di Pordenone, le attività che vengono proposte tra i temi le modalità di accesso e quelle operative del punto nascita, dal controllo del dolore alle prime cure al neonato. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavallari e Federico Comar. In redazione ha collaborato Samantha Gon, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.